Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a maggio del 1854. Francia e Regno Unito in guerra contro la Russia. Torino pensa all'invio di un contingente. Tragedia del mare al largo dell'Inghilterra. Affonda una nave, 380 morti. Febbre da matrimonio reale a Vienna. Francesco Giuseppe ha sposato Sissi, la duchessa di Baviera. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura ancora la politica internazionale. Francia e Regno Unito hanno deciso di entrare in guerra contro la Russia dopo aver chiesto inutilmente allo zar di ritirare le truppe dai principati danubiani di Moldavia e Valacchia. Intanto anche il Regno di Sardegna starebbe pensando ad un intervento. A proporre di inviare un contingente è stato il primo ministro Camillo Benso di Cavour. È stato assassinato mentre camminava per strada il duca di Modena Carlo III. La polizia si è impegnata per mesi alla ricerca dell'assassino finché non sono arrivate le notizie da New York, dove è approdato nei giorni scorsi Antonio Carra, già arrestato ma poi ritenuto innocente, che ha confessato tutto. È un palafreniere di corte che voleva vendicarsi dopo essere stato scudisciato in faccia dal duca. Una terribile epidemia di colera sta iniziando a colpire l'Europa, le vittime si contano a decine di migliaia in Francia, mentre in Italia sono stati particolarmente colpiti il Regno di Sardegna, il Granducato di Toscana e il Regno delle Due Sicilie. Centinaia i morti nella sola Napoli. Un dramma nel mare d'Irlanda, dove la Royal Mail Ship Taylor è affondata e sono morti 380 passeggeri. Si indaga sulle cause, ma il fatto che la nave sia in parte rivestita di ferro potrebbe aver influenzato la bussola. Da quel che si è appreso, una parte dei passeggeri, poco meno di 300, è riuscita a salvarsi quando, col mare in tempesta, la nave si è schiantata sugli scogli. L'equipaggio ha abbattuto un albero della nave e l'ha gettato sulla costa, permettendo ad alcuni di trasferirsi a terra. Poi le onde hanno portato via la nave di nuovo e non vi è stato nulla da fare per gli altri. E noi cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo a Vienna per parlare del matrimonio dell'anno. Un'immensa folla festante ha salutato l'arrivo della principessa Elisabetta di Baviera. È arrivata a Vienna dal Danubio su un battello magnificamente addobbato per l'occasione. La sposa, 16 anni appena, è arrivata alla chiesa degli Agostiniani su una carrozza imperiale trainata da 8 cavalli bianchi. La chiesa era drappeggiata di rosso e illuminata da 15.000 candele. Alle 18.30 Francesco Giuseppe ha condotto la sua sposa all'altare. Alla testa del corteo l'imperatore, seguito dall'arciduchessa Sofia e dalla duchessa Ludovica. E poi Elisabetta, pallida e seria ma bellissima, in un abito bianco con strascico ricamato in oro e argento e ornato di mirto. Prendete questi anelli. D'ora in poi essi vi ricorderanno della fedeltà coniugale che oggi vi siete promessi e che preserverete per sempre. Amen. Le nozze sono state ufficiate dall'arcivescovo di Vienna, cardinale Rauscher. I neosposi partiranno ora per la luna di miele nel Castello Nuovo di Luxemburg. Marta Cagnola, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, Vienna. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it e scaricate il nostro quotidiano. Scriveteci, lasciateci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure a gazzettino@radio24.it. Visitate il nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.